Andiamo in Sardegna con Pierino Vargio, che è l'ambasciatore dei centenari sardi. Pierino Vargio ha 72 anni, è un agente di polizia penitenziaria in pensione e si trova ad Elmas in provincia di Cagliari e da molto tempo, quasi 10 anni, si occupa di fotografare i centenari della Sardegna, perché bisogna sapere anche che la Sardegna è uno dei luoghi dove si vive di più, infatti ci sono le zone blu, le blue zone, e sono proprio i luoghi dove la longevità della popolazione è molto alta. E ci sono degli studi in corso proprio per capire i motivi di questa lunga vita dei sardi in questa zona che si trova tra l'Ogliastra e la Barbagia. E Pierino appunto visita, incontra e fotografa questi sardi. Pierino, come è iniziata questa passione delle foto per i centenari? È iniziata così, quasi per gioco, come si dice. Per caso? Quasi per gioco si può dire, perché io nelle processioni religiose fotografavo quelle vecchiette che non potevano andare in chiesa, perciò le trovavo nell'uscio di casa e così mi piaceva fotografarle, una cosa bellissima. E poi ho iniziato con una centenaria, la prima, giovanissima, aveva solo 109 anni. Mm-hmm. Perché lei ha fotografato gente che ha anche più di 109 anni. Ecco, qual è la persona più anziana che ha fotografato? Allora, la più anziana che ho fotografato era una signorina, aveva 110 anni e poi ci ha lasciato a 111 e mezzo. Mm-hmm. E lei parla soprattutto di donne centenarie, perché? Perché gli uomini centenari sono meno delle donne, vero? Eh sì, io a volte dico che è una rarità, perché ogni 18 sono donne. Perciò quando facciamo un maschietto... È una cosa più rara, insomma. Sì, è una cosa rara, era anche bello. L'ultimo che ho fatto sta per fare 106 anni adesso a giugno, ma... in ottima salute, stava bene, abbiamo fatto un'intervista, insomma, bellissimo. Adesso ho tre centenari questi giorni, però sono tutte donne. Tutte donne di quanti anni? Una ce l'ho che fa 100 anni a 12, mm-hmm. Una ce l'ho lunedì che fa 101 e una ce l'ho martedì che fa 100. Perfetto, perché lei va in tutta la Sardegna, non è che si limita a fotografare i centenari della zona blu, vero? No, io ho fatto anche la blue zone, anzi diciamo che ho iniziato con un paese della blue zone, per dire, però io li fotografo ovunque, non faccio distinzioni, capito? Dove ci sono centenari. E poi in Sardegna gli dico una cosa, è difficile trovare un paese dove non ci sia un centenario. Infatti lei è anche in vacanza, no? Mi sembra, va al mare in Sardegna, in qualsiasi posto di mare, e che cosa fa? Fotografa i centenari perché li trova anche lì. Brava. Noi anche sabato scorso ero in vacanza un fine settimana e perciò mi ho approfittato, mi sono avvicinato a Mamo Yada, che c'era questa che aveva fatto 100 anni, sarà 10 giorni fa, perciò non ero potuto andare perché non si può andare dappertutto. Chiamati familiari mi aspettavano, come si dice, a braccia aperte, l'abbiamo intervistata, fotografata, bellissima. Sì, perché poi bisogna dire che Pierino Vargio non si limita a fare le foto, fa proprio un servizio completo con le interviste che cura la moglie di Pierino, la signora Angela, vero? Sì, Angela fa tutte le interviste, ma faceva anche foto prima, in questi 10 anni faceva anche tante foto anche lui, ma le fa anche adesso, perché a volte le confrontiamo, no? Lui le fa qualcuna col cellulare, io le faccio con la macchina, e poi quando le vedo che sono molto belle, dico dai, pubblichiamo anche questa, no? Capito? Certo, certo. La signora Angela Mereu, che segue sempre il marito proprio per andare nelle case dei centenari. Poi bisogna dire una cosa molto importante, che tutto questo lavoro di fotografie è confluito anche in un libro, giusto? O due libri, mi scusi, non mi ricordo. No, abbiamo pubblicato due libri. Ah, due libri, ecco, infatti ricordavo qualcosa. Due. E poi soprattutto una mostra fotografica di queste bellissime immagini di queste centenari sardi. Abbiamo una mostra che da circa 7, quasi 8 anni va in giro per la Sardegna, è stata all'estero, siamo stati a Ginevra, siamo stati a Francoforte, Germania, è stata inviata in Canada, è stata a Genova, ha capito, una cosa bellissima, molto molto bella, un gioiello. Perché la mostra contiene, mi sembra, 55 immagini che lei ha scattato, però lei ne ha fatte moltissime di più di foto, giusto? Quante foto di centenari ha fatto finora? Sto arrivando a 480, perché quella che mi fa 100 martedì, mi compie 100, io anche se l'ho già fotografata, perciò diventa una centenaria e perciò ne aggiungo una alla lista, no? Capito? Quello che devo fare a Gavone il 12... è un maschietto, quello è un maschietto. Ah, finalmente un maschietto, insomma. Che... io l'ho già fotografato 2 anni fa, infatti i 12 sono anche al compleanno, per affetto. Quindi sono quasi 500 foto di centenari. Quando parliamo di centenari, di foto dei centenari, diciamo anche, lei fotografa anche persone che sono in imminenza, insomma, di compiere i 100 anni, vero? Noi fotografiamo tutto, già da 10 anni. Tanti, tanti, io non per, poi chi comanda, già lo sapete che è sempre il nostro Signore, io ho fotografato tanta gente a 95 anni, poi mi sono arrivati a 106, per dire, ma sa quante, tante, perché dicono anche che porto bene. Porta fortuna, certo, perché da 95 a 106, insomma, è un bel cammino, insomma. Queste foto, diciamo anche queste, si possono ammirare anche in una pagina di Facebook, no, curata da Pierino Bargio, che si chiama Centenari di Sardegna, che è seguita questa pagina da oltre 60.000 persone, vero? Questa pagina è quella che mi ha dato una visibilità internazionale. Cosa vuol dire? Siamo andati in Svizzera, siamo stati in Germania, quando abbiamo mandato la mostra in Canada, che io non potevo andare per motivi di salute, non potevo affrontare lunghi viaggi in aereo, e questo deriva, ma tutte le cose che facciamo, perché noi poi siamo sotto a testate giornalistiche internazionali, certo, che pubblicano nelle riviste, ne abbiamo mandato in Austria, ne abbiamo mandato dappertutto, ed è una cosa bellissima. Certo, quindi anche la rete internet, insomma, l'ha aiutata, no, nel far conoscere questo suo lavoro. Ecco, quando lei incontra queste persone che hanno 100 anni, 110 anni, 109 anni, ecco, che cosa la colpisce di queste persone in particolare? Beh, si trovano emozioni indescrivibili andare a trovare queste persone. Ogni volta che andiamo a trovare una centenaria, l'ho scritto anche l'altro giorno, questa di Mammo Iada, è come aprire un libro. Come un nuovo libro, ogni centenario è un libro, dalla storia, da quello che ci raccontano. Potete immaginare quanto è bello ascoltarli, poi sono sempre contenti, tranquilli, sorridenti, sempre gentili, si preoccupano, e l'avete invitato, dovete invitarli, vi dicono, alla fine sono persone d'altri tipi. Anche perché hanno moltissimo da raccontare, immagino, insomma. Sì, raccontano tutto, loro raccontano da quando erano piccolini, tutto quello che hanno vissuto, insomma, passato, molti lo sapevamo che hanno attraversato 2 guerre, certo. Hanno sofferto anche la fame, certo. Però sono sereni, una cosa mi piace sempre dire, trasmettono allegria, tutti lo stanno bene. Trasmettono allegria, ecco, stanno tutti bene fisicamente, sì, esprimono ovviamente anche tanta allegria, perché insomma essere arrivati anche ad un'età così importante credo che faccia piacere se stai bene. Ecco, queste persone stanno tutte bene fisicamente, o magari trova anche delle persone meno in salute? Allora, quando stanno bene li fotografiamo che stanno bene, se non stanno bene li fotografiamo lo stesso. Sì, noi parlavo dei racconti che le fanno, perché non tutti magari sono in grado di raccontare, no? Eh, forse però io magari lo chiedo alle figlie, ascolta, se lei mi aiutate voi, a volte metto la figlia, una nipote, e aiuta, magari racconta un po' della nonna, della mamma, ed è una cosa bella lo stesso. Ma la maggior parte dei video che io pubblico su Centenari sono tutti molto, molto persone attive, capito? Eh sì, l'ho visto, sono delle foto veramente, veramente bellissime. Quindi lei con questa sua attività, con questa sua passione, perché ovviamente è una passione, lei non fa il fotografo di professione, no? La nostra è una passione, è nata così per caso. Io dico sempre, finché avrò la forza, finché avrò la salute, non mi fermo, perché mi ha cambiato la vita, anche nel senso che è bellissimo, insomma, ecco. Ci conoscono tutti, ovunque andiamo ci ferma, la gente ci saluta, diciamo che ci vuole bene, la gente ci vuole bene, ecco. Quindi lei non si limita, dicevo, con la sua attività a fare una fotografia, ma a raccontare la storia di queste persone e probabilmente anche la storia della Sardegna in un certo modo. Beh sì, sì, sì, anche quello, perché poi loro, paese per paese dove andiamo, raccontano le loro cose, anche del paese, insomma, capisco. Certo, quindi una storia, sono storie veramente molto molto importanti. Va benissimo, io la ringrazio Pierino per questa bella testimonianza, le auguro di fotografare più centenari possibili, naturalmente tantissimi auguri anche ai sardi, ai centenari sardi. E lei quindi mi ha detto che già ha degli appuntamenti, no, nei prossimi giorni con dei centenari, giusto? Intanto vi ringrazio per l'attenzione, sia con questa chiamata, la radio, la intervista della radio, e per l'altra intervista della trattoria. Sì, l'abbiamo fatto con carisma.blog, sì. Ascolti, volevo fare, oggi ha compiuto 104 anni una centenaria che io ho fotografato quando ne aveva 100, no? Mm-hmm. Ho pubblicato la foto, si chiama Peppina di Lozzorai. Mm-hmm. Ha compiuto 104 anni. Facciamo tantissimi auguri a questa giovane, perché lei quando scrive su Facebook dice oggi ho un appuntamento con questa giovanotta di 104 anni, no? E quindi facciamo tantissimi auguri a questa giovane di 104 anni e naturalmente a tutti i centenari della Sardegna, che è un luogo meraviglioso e che oltre a tante cose regala anche la longevità. Grazie mille Pierino, un grande saluto anche ad Angela e naturalmente tanti tanti saluti a tutta la Sardegna, grazie mille. Grazie, grazie tanti. Angela ricambia.